a tutti e io sono solo Babareghi. E niente arriva a tutti quanti li bagnano del 57 che hanno fatto un anno di compleanno. Siete voi a guai raga ma fi voglio canto raga ma fi voglio canto raga ma fi voglio canto raga ma fi voglio. Senti mo qua tutti quanti senti il membro del Babareghi che ne dice a tutti quanti a quelli in merda che hanno sempre cagato lo cazzo di uno di quelli ciccio della Ligos. Cadono termina l'ambulante e quella merda della Bartolini che l'ha sempre promesso i centri sociali invece non ha fatto lo cazzo. L'ha sgomberato di solito il cantiere di una fabbrica gli ha dato solo l'inca a me non ne fottono cazzo e l'inca. Senti quello papà ricordo c'è tutti quanti mannaggia che basta muerti. Senti Madelico cantare che parecchia gente si è andata del suo centro sociale, parecchia gente ne nova, parecchia gente rimane. Senti ma lo paparica qua tutti quanti gradisce, mannaggia non puoi farci tipo fottere tutti quanti, lo paparica senti mo tutti quanti decidi e c'è più fuoriti più consolati. Senti ma tutti quanti bella camera dico balla di quando che lo centro sociale anche parecchia gente cade dico po' intelligente tipo dico anche dico tutti lì disumani e c'è dei bagnoni dello bradello e c'è da poro lì bagnoni dello bolle. Cioè senti ma quando dico lo paparica non spiccia qua cancia brutti qui di la graf non c'è devoro le bagnone della radio e c'è de angus che controlla tutti quanti tutti gli disgraziati che stanno lupare che sono tutte le mille disgraziati anche qui se ne hanno accorti. Senti ma lo paprika qua che ha tutto quanto le sina parecchia anni che sta vedendo un film. Senti di noi lo paprika qua e canto reggae reggae da senti ma te dico suona reggae reggae ormai te dico suona reggae reggae sai. Buon compleanno a tutti voi disgraziati divertimoli a fanculo a chi basta voi sta tutti in merda con le sgomberano i centri sociali senti voi ciao a tutti.